non ti nascondo che da un paio d'anni a questa parte mi è tornata la voglia di tornare in panchina e ho rischiato molto in ottobre di quest'anno. Doveva essere una situazione anche importante, però poi così non si è concretizzata, ma non lo nascondo, ed è la squadra che ieri è stata sconfitta 3-0 a Donetsk. C'era un momento di difficoltà di Ranieri, che appunto aveva dei problemi con i suoi giocatori eccetera, poi le vittorie, sai, cancellano un sacco di cose, che poi alla fine Ranieri se n'è andato a gennaio, e lì a quel punto la società, visto che la società in questo momento ha la necessità di cedere, quindi hanno optato per una soluzione interna senza esborsi economici, e quindi, però ecco, diciamo che sono stato in buoni rapporti e ho rischiato molto di tornare in panchina con la Roma. Sono i miei figli e mia moglie che mi tengono per i piedi e mi dicono: ma papà, ma chi te lo fa fare? Però in effetti è una vita che ho trascorso nel mondo del calcio, e ti ripeto, dopo 4-5 anni di calcio solamente televisivo e allo stadio, un po' di desiderio mi è tornato. Ho una bellissima azienda, Gigi, che gestisco insieme con mio fratello, quindi non sono obbligato alla presenza giornaliera eccetera, però ecco, è la mia passione da sempre, no? Quindi diciamo, se dovessi entrare di nuovo nel mondo del calcio, so che la mia azienda andrebbe avanti ugualmente con la gestione di mio fratello eccetera. Quindi sono un uomo fortunato, non lo nascondo, e posso decidere di fare quello che più mi piace. Ti ripeto, mi è tornata un po' la voglia, però con questo non sto spingendo niente, ma se dovesse succedere sono proprio pronto.